infatti adesso gliel'ho messa in acciaio, adesso va di lusso, adesso non c'ho più stazionario di niente, prima ci arrivava a 1,5 a 2, che cosa succede? No? Non ho mai avuto stazionario così, invece era quel problema lì, tolto quello, l'antenna di nuovo funziona benissimo. Sì, certo, deve funzionare, già lo credo, deve funzionare. No, io la verità con la matematica mi sono trovato sempre molto bene. L'unico problema che avevo è che alle volte mi si non era cortocircuitata perché non facevo contatto con la specie di impedenza che c'è all'interno della calotta, nella base c'è un'impedenza di filo del rame, di quel filo isolato, isolante, che non fa contatto. È praticamente la proseguizione, cioè la cosa continua, la lunghezza dello stilo centrale continua, però quello lì è messo a massa, è secondo come si muoveva magari col vento eccetera, non era più in contatto perfetto a massa e dunque non era più cortocircuitata, però l'antenna funzionava ugualmente bene, era grande, sempre 1,1, sempre degli stazionari, e andava proprio bene. Sentivo le trasmissioni in HF sui 40 metri, capita 9,20 anche di più tante volte, quanto ascolto ho fatto, e a voglia. La notte mi addormentavo anche con la cuffia, con la radio accesa, e ascoltando i 40, addirittura in 80 metri, mi ascoltavo, e anche in 160 ho ascoltato, non molto, però anche in 160 ho ascoltato lo stesso. Vai Luca. Allora, adesso sto parlando, mi senti giù? Cosa hai detto? Non ho capito, non stavo dicendo chiaro. Adesso mi senti? Sì, adesso sì. Aspetta, che momento un po'. Adesso usando l'altra radio. Guarda, questa è la Grazioli con l'altra radio, già sei tu. Segnali 9:10. Adesso io sto usando il dipolo. Senti come sente comunque con la Grazioli. Sì, con la Grazioli arriva più forte, arriva il dipolo. No, non mi ha capito, ti stavo facendo ascoltare in 40 metri con la Grazioli. Io adesso sto usando il dipolo qua con l'altra radio. Ah, sì, ma l'ho ascoltato. Ma stavo ascoltando in 40 metri, stavo ascoltando quando si è passati qua sul dipolo. Con la Grazioli, i primi passaggi, era più forte di quando poi si è passato a modulare, che per un attimo ha lasciato il bianco e c'era sempre i 40 metri ed era col dipolo. Con la Grazioli era più forte la modulazione. Ti ho fatto sentire. Questa è la Grazioli. Per farti capire, no, io adesso sto usando il dipolo e l'altra radio, quella che hai visto tu. Sì, te lo sto dicendo, come con la Grazioli arriva benissimo, non so, e così era col coso, cioè mi arrivavano 9,20, 9,25 anche, mi arrivavano con la Mantovatubo, mentre invece con la cosa, con la Game Master, mi sentivo, se era 9,20, con la cosa, con la Game Master, arrivavano 5, 6, non di più, 7, qualcuno così, dipende dalla potenza che usavo, ma niente di più, è sorda, per la HF la Game Master è sorda, molto sorda, lo poco, vai già. Io non ho mai provato la HF, però qua mi ricordo che come stazionario non ne avevo quasi nulla, e poi sì, è sorda, infatti non si sente QRM. Con quell'antenna lì io non sentivo QRM. Stazionaria non ne ha, tu la prendi da Game Master, la piazza e sei già a posto, no, non devi fare niente di niente, non devi controllare nemmeno, intanto non succede niente, perché la Game Master stazionaria non ne ha, uno su tutta la banda, 1,1, io quando schiaccio qua me la dà la radio, il valore delle stazionarie, e ho sempre stazione, siamo sempre uno di stazionali, ti puoi immaginare, per cui se aumenti un pochino, magari intorno ai 10, ai 12 watt, può salire 1,1 circa, 1,1 traballante anche, che significa che 1,5 può essere, no, non di più, ma bisogna che sia intanto un po' lontano dalla banda centrale. Questa non so su quale canale loro l'hanno accordata, perché di solito noi diciamo centrobanda che? Centrobanda dei 40 metri, dei 40 canali, che poi è il canale 19 centrobanda, a differenza di tanti che pensano che sia il canale 20, no, sono balle. Centrobanda del canale 40 è il canale 19. Però la Game Master non so loro su quale banda l'hanno accordata, su quale canale è stata accordata. E poi però funziona su tutta la gamma, tranquillamente, non c'è problema. Tutti in Santiago uno di stazionari, per cui no, non c'è problema. Vai Luca. Adesso poi si tocca la reazione, si chiede tutti con la reazione, non si vuole così la rotta. C'è tutto po. Forse l'avevo aumentato. Per far ascoltare l'altro. Ha detto che è una moda le antenne comunque. Lo so. Comunque, ogni tanto ti scappa il volume. Puoi abbassare ancora un po' volendo, che è ancora più chiara, non c'è problema lui. Sì, ho detto, l'avevo aumentato poco fa quando ti stavo facendo ascoltare i 40 metri. Grazie, va bene adesso, dovrebbe essere nella giusta posizione. Sì, va benissimo, così va benissimo. Non c'è problema, va bene, bene, bene. Capito Gianni, per cui non sappiamo, la Game Master è l'unica bella comodità, è che tu la piazzi e va sempre bene, non c'è problema, non hai bisogno né delle norme, soltanto non ce ne sono stazionali, anche se vai a cercarteli non ce ne sono stazionali, a meno che non sia rotta, che è un problema, allora il discorso è diverso, però va benissimo. Per la Gramonti tu sei tranquillo su tutta la banda della 27, non ce ne stazionali assolutamente, ma cioè è nella norma, uno e boh, tutto lì, vai già. E l'unica cosa che bisogna stare attenti c'è il filo interno, che non bisogna metterlo in gira, bisogna lasciarlo un po', non molle ma non troppo in gira, perché come il vento la fa muovere, poi se te lo spezzo. Ma io non ho messo niente, mai tirante, mai. Io ho 50 anni di attività, non ho mai messo un tirante, mai. Se sono un palo rigido, bello, palo, quello sì, ma per il resto non ho mai messo, mai, nemmeno quando avevo la Game Master, nemmeno quando avevo la Stella, nemmeno quando avevo la Grand Prix, mai, mai, mai ho messo un tirante, mai, mai, mai, mai. E dunque è andato sempre molto bene, non c'è problema. Per cui tante volte sento, mi ha piegato questo, per forza si è piegato perché non hai messo un palo adeguato al peso dell'antenna innanzitutto e alla posizione dove ti trovi, perché devi considerare tante cose, la forza del vento, la posizione dove ti trovi, l'altezza, la lunghezza del palo, tutte queste cose. Se uno li considera come si deve, non succede niente, senza tirante non c'è bisogno. Ad Alessio col tirante gli ha piegato il palo d'acqua al vento, un palo d'acqua. Vuol dire che era un palo di coso, di burro, anche a coso gli ha piegato il palo del tubo dell'acqua, come si chiama, a Gianfranco, quello di Monteolo. La Game Master non gli ha fatto niente, proprio l'antenna dove c'era il palo, si è tirato il palo, però l'antenna non ha fatto niente. E sto parlando perché a differenza che dico la Game Master è debole, non è vero che non è debole, se l'antenna è pesante come si deve non è debole come la gente può pensare. Ha piegato il tubo, piegato e non rotto, piegato, però l'antenna non è successo niente. È già impressionante come si piega quando c'è il vento, che pare che si trucca da un momento all'altro. Questa qua che ho piazzato adesso non si muove di un millimetro, appena appena, ma proprio che basta si pigiava in lui. Lo so, purtroppo è così, quella è fatta apposta, è così elastica apposta. Soprattutto la casa te la dà per 160 km l'orario, cioè 160 km l'ora di velocità del vento. Se ti danno quella garanzia, fallo che funzioni a 120 anziché a 160, però 120 qua difficilmente arriva al vento. Tentavo un po', che scusa se ti si rompe, ma lì chissà come l'ha piazzata, vuol dire che non è piazzata bene, magari l'ha troncata un vento di 100 km orari. Può essere sì, certo che può essere, perché no? Tante volte la gente, poi può capitare magari un tipo di canna che è difettoso, può capitare anche quello, ma io questa anche io quando l'ho smontata, liscia, di solito la cosa, la canna così, quando ti passi la mano sembra quel vetrino, no? Che sembra che ti si attacchi e che entri invece nelle mani, nel sotto la pelle ti entra, invece questa niente, è proprio bella, liscia, pulita, non ha niente, cioè una minima scalfittura non ce l'ha, vai già. Quella c'era troncata, Sandro, io me lo ricordo che l'hai aggiustata tu. Sì, quella c'era troncata, Sandro, certo. Poi l'ha data a Luca l'aveva messo un pezzo di tubo nero, gli aveva messo di coso e gliel'ha restituita a Sandro. Poi Sandro l'ha venduta a me, l'ha venduta 100 euro, l'avevo pagata 100 euro. Io l'ho tolto quel tubo lì e ci ho messo un pezzo di quel tubo rigido da impianti elettrici di cose, proprio nel punto dove c'era rotto, no? Una quarantina di centimetri al centro dove c'è il collare, non ne ho messo nemmeno, ho messo il nastro sopra e il nastro sotto di questo tubo supplementare, e adesso ce l'ho già anni piazzata, non succede mai niente, si piega quanto vuoi, però non è successo mai niente. Vai Luca. Io gli avevo fatto anche quattro spacchi, li avevo modificata con quattro spacchi invece che due, ma io mi ricordo che c'era la X7000 che durava comunque una vita ed era in vetro resina, credo che ci sia ancora in commercio la X7000, eppure durava una vita di Sant'Enna. Non lo so, io non ce l'ho mai avuta quella e non so cosa dirti, però ripeto, no, perché ho sentito tanta gente che questa la criticano, l'antenna, oh questa si dronca, io questa così, questa volà, io ce l'ho già almeno 4 anni e ho visto il vento ne ha preso, perché qui sembra, io anche se sono in basso, però il vento soffia veramente, non a caso io da sopra il tetto vedo il mare, anzi dal terrazzo, no, non da sopra il tetto. Soprattutto lo vedo proprio bene, vedo anche la barca quando arriva la mattina, che arriva la barca di linea, per dirti, no. E dunque se è tutto libero e se vedo il mare vuol dire che è tutto libero, e il vento ne prende, si piega molto, la verità, si piega moltissimo, però regge, ho visto che regge, vai già. Anche io da casa la vedo, la barca, la nave, i peschilici, tutti vedo. Si vede anche la spiaggia a volte. Certo, ma tu sei già in alto, è già diverso, oltre al fatto che sei più in alto come conformazione territoriale, tu pensa, tieni presente che io sono a 130 metri sopra il livello del mare, tu sei magari a 225 metri, più il palazzo che è molto più alto del tuo, e il mio, la casa mia, la parte più bassa dove c'è l'antenna, sono dal suolo, dalla strada, sono 7 metri e mezzo solo, e dalla parte di dietro sono 10 metri, 10 metri e 50, sicché tu vai un palazzo, vai a più piani, quanti piani è il palazzo tuo? 4 piani, 5 piani, boh, non lo so, non me lo ricordo, per cui sei molto più in alto. Più c'è anche, no, ma la sarda, ma è un attico, c'è 5 piani più là. E appunto, si vede bene, è chiaro che vedi, poi da lì dal motore zero, lo so, capita. Io mi ricordo quando salivo sul tetto dove abitava mamma, che adesso ci abita mio fratello, lì, tu vedi tutti i giri, dove ti giri, vedi tutto libero completamente. giù verso il monte, vede tutto, tutto il mare, tutto, tutto indistintamente. Mia madre abitava in via Salvolento, cioè via Alessandro Manzoni, e in alto, alla fine di via Alessandro Manzoni. E si gira dall'altra parte, vedevi tutte le colline, tutto, boh, vedevi addirittura, era lì, ti puoi immaginare, tanto per darti un'idea. E l'altitudine è molto, molto importante. Ma io, ripeto, mi sono dato con lo strumento professionale, proprio sotto casa, con lo strumento di mia figlia professionale, 130 metri sopra il livello del mare, solo, sicché sono in una posizione abbastanza limitata. Tu immaginati se dovessi andare, mentre invece se vai dalla parte giù dove c'è ad esempio Walter, lì è più in alto, perché poi scendendo lì c'è una salita e poi c'è il palazzo di Walter che è alto. Ma io ti sto dicendo, non dal palazzo, da via Bologna, quando c'è bella giornata, si vede tutto il panorama, scendendo col cane, quando io porto il cane giù, scende via Bologna, lì c'è il prato, tutto quanto per farmi fare la pipì. Beh, si vede tutto, si vedono anche le imbarcazioni. Sì, beh certo, ma è così. Nada. Non so, si vede, sì. Te lo sto dicendo, io se mi metto sul tetto la mattina, quando arriva la nave, cioè all'ora della nave, vedo che sta transitando, sta arrivando la nave in porto, sta arrivando. Per cui io, però è tutto libero, ecco per quale motivo ti dico, anche se sono in basso, perché tutte le case sono a quell'altezza e bassa, non la puoi fare più alta, per una questione di piano regolatore, e dunque è tutto libero, non c'è un palazzo che mi copre l'antenna per il vento, eccetera, no, la prende in pieno e basta. Vai Luca. Comunque bisogna rinforzarle. Quella antenna lì la rompe qua la rompe come un fruscello o giù. Tiro su tutti e due i pali e la rompe come un fruscello. Sì, appunto, ti stavo dicendo, secondo di dove sei, la posizione dove sei, devi anche pensare di piazzarla nel modo adeguato, è ovvio. A Sandro sempre che gli sia la rotta, io lo so, perché proprio in quel periodo stavo facendo anche dei lavori io a casa per Sandro, gli avevo fatto delle porte eccetera, e con lui sempre che gli sia la rotta, proprio lì dove si era rotta, perché lui l'aveva ancorata coi fili di nylon nella parte alta dell'antenna, alla punta. Si vede che è arrivata una bella burrasca di vento e gliela crepata di accento. Se fosse stata libera, senza i tiranti, solo con... Vedi Luca, tu dici di mettere i tiranti in alto. Però non è della rotta. Non a caso. Non voglio in alto, voglio appena a metà. Torres, che ce l'ha avuta, dice non si è mai rotta, però oscillava in una maniera impressionante. Lo stesso Eugenio ce l'ha, l'antenna Eugenio lì a Porto Torres, eppure lì vento tira lo stesso, non è che lo tira, eppure non gli è mai successo niente. Vai già. Eugenio abita all'interno delle campagne, non è a Porto Torres, ma è lì di Uri, quella zona lì, quindi è all'interno, quindi il vento non è che tira come tira in città, tipo quando si è a Ciammari come la Sandro. Non lo so, però sei sempre a Porto Torres, la violenza del vento c'è sempre lì. Poi c'era un'altra persona che abita proprio lì vicino al porto, che me l'ha detto, non ti faccio il nome, ce l'ha avuta, la Game Master, mi ha detto, si piegava, avevo paura che mi si stressasse, però non si è mai stressata. Poi alla fine l'ho tolta perché non mi piaceva vederla piegarsi così, ma la tolta solo per un motivo, non perché si è rotta, non le piaceva e aveva cambiato antenna. Tutto lì. Al faro abitava, non vicino al porto, al faro su. Vicino al porto, vicinissimo al porto, dunque il vento lo prendeva in pieno lì. Beh sì, perché il faro in alto è di fronte proprio al porto. Io le signore le ha giovate tutti i canti, io le conosco tutte quelle zone. Sì, è lì e fino a rimanere la zona più alta forse il conduttore. Beh certo, lì quando arriva il maestrale sono problemi, capita. Muove la nave, muove, è l'Ubilia, ed è il porto, per dire no. Però cosa vuoi fare? D'altronde, ripeto, così, però a me veramente mi va bene così com'è. E ripeto, se mi si dovesse rompere, nonostante che ho l'antenna, che ho pagato 145 euro, l'ho pagata da banca battuta, non lo metterò mai più, mai più. Ce l'ho appoggiata nell'angolo, in mansarda su, no, mi dà anche fastidio, però no, no, no, non so cosa farne, ma non la vendo, me la tengo e basta, non è che ho bisogno dei 100 euro per dire, no. E quella invece mi è utile, comoda, perché non ci sono radiato, non c'è niente, leggera, tutto il lavoro lo posso fare da solo, anche perché adesso io non vado più sul tetto, ma sì, lavoro solo nel terrazzo e basta, che me lo faceva a me, ho 82 anni, a Taratara Capituglia, non me lo fa fare più nessuno già, anche se io su ho una passerella, posso passare sui muri perimetrali, perché mi avevo messo le tavelle, senza mettere un piede sulle tegole, non ce n'è bisogno. Non c'è pericolo, sia ben chiaro, perché intanto le case sono tutte in aderenza qua e dunque sono tutte allo stesso livello, ma che vada a mettere il piede sul tetto dell'altro a fianco, non succede niente, per dire, ma non ci salirò più. Te hai fatto col sistema che si piegava il tubo, che non facevi fatica e cose? Ce l'avevo, ce l'ho sempre col tubo, vedi, a cerniera, prima l'avevo fatto così, un tubo a cerniera, l'avevo costruito, proprio una cerniera che si piegava, e lo mettevo in orizzontale, piazzavo tutto, piazzavo, poi tiravo su il palo, tranquillamente. Quando tiravo su, scendeva un collare che c'era, e dunque mi bloccava l'antenna dritta, mi bloccava. Stringevo i bulloni tranquillamente, me la mettevo a dritta, perfetta, proprio come un fuscello, proprio bello, per dire, no? Però poi ho cambiato idea, non ho più fatto questo tipo di lavoro, per cui non c'era bisogno. E tiravo su un palo a 6 metri, quando c'era la manta battuta, io tiravo su un palo a 6 metri, perché quella che ho adesso non l'ho mai messa così in altezza, così. Ecco, l'ho messa sempre in basso, e ce l'ho sempre in basso. Con la scusa che avevo costruito questa antenna autocostruita, avevo messo due safe con tassellatore nel terrazzo, proprio per provarlo, così ho fatto, così almeno se devo accordarla, se devo tararla questa antenna, la posso lavorare. Invece l'ho messa, è andata bene al primo tiro, è andata bene, non l'ho mai avuto, e da quel giorno è sempre rimasta lì, è sempre, adesso non la tolgo, non la toglierò mai più, me la tengo sempre nel terrazzo. Beh, se ti accomoda così adesso, visto e considerato che arrivi da tutte le parti, non ti dà nessun problema. Appunto, te lo sto dicendo, tu chiedi a Giovanni quando va a Berchida, e lui dice, ma questo dice, come arriva qua? Beh, ti dirò che addirittura mi ha sentito che c'eri anche tu in collegamento sul canale Giorno e altri, adesso, e chiede a Giovanni se ti sto dicendo male, dice, sentivo meglio a te che a tutti gli altri, per dire, no, già. E Giovanni sta? Giovanni di Pratamona. E Giovanni sta? Sì, sì. Non l'ho più sentito. Nemmeno io l'ho più sentito, io ce lo sento, mi farebbe molto piacere, perché per me è una persona veramente gradevole, alla grande. Io tutte le volte che lo sento sono contento. Sì, ma anche per me è così. Siamo andati a calmare insieme, ci abbiamo dovuto una cosa, se lui non poteva bere perché aveva un problema, non poteva bere. Una cosa ce la siamo bevuta. Al Marsala ci siamo trovati, sto facendo le analisi del sangue, poi sono uscito, sono andato per fare colazione, l'ho con la radio accesa, mi ha detto fermati e sto venendo, e ci siamo trovati. Sì, no, io di persona non lo conosco, perlomeno credo di non conoscerlo, non ci siamo mai visti, però ci ho parlato tante volte al baracchino e mi fa piacere parlare con lui, perché una persona veramente in gamba, secondo mio, è un'ottima persona. Avanti Luca. Sempre in viaggio, ha ripreso a lavorare, così che viaggia un bel po'. Meglio così, sono contento che lavori, certo, sono contentissimo. Vabbè, chiare sono? 9:20, cioè 7:20, 7:21, per l'esattezza, dai. Nella mia radio digitale con l'orologio. andiamo tutti, anche io devo portare giù il cane. Tu Luca hai portato le scalette? Io l'ho portato alle 5 e poi l'ho riportato alle 9. No, io l'ho portato adesso, così poi non lo riporto più. Almeno va a scendere due volte, scende alle 8 di mattina, a volte alle 9, a volte alle 11, dipende. La mattina e poi lo porto la notte, verso le 7 e mezza, alle 8, e lui va alla grande così. Ma io faccio le 8, 8 e mezza, poi le 5 e poi le 9. Quando era piccolo lo portavo 4 volte anche, perché se lo pisciava in casa, ecco, non era abituato ancora. Lo portavo anche 4 volte, anche se ci aveva il terrazzo, le traversine la faceva lì, capito? Però poi una volta che ci ha abituato a farla fuori, le ho tolto le traversine, non le ho più messe. Però non è solo a fare bisogni già, cioè il cane si muove anche. La scusa dei bisogni c'è, però si muove anche, capito? Io il cane le faccio fare passeggiate, io il Marco di Rusoli, tutto vicino che posso fare, salgo da casa per la strada nuova che porta al monte, mi faccio fare tutto il giro, scendo via Prati, scendo da via Prati, poi passo di nuovo in via Mores, e poi a volte mi fermo anche lì dove c'è la Iona in piazza della Meridiana, e quando parlo con la gente lui gioca a fare con gli altri cani, e non posso solo a fare i bisogni. Io socializzo con tutti, come socializza il cane socializzo anch'io. Tu sei fichetto, sì, non socializzi. Ah, sei bene, cosa fichetto, io non sono mai stato fichetto. Mi piace socializzare, mi piace parlare con la gente, conoscerla. Io guarda, da quando c'è il cane conosco tutto il vicinato. Prima abitavo tanti anni, non conoscevo manco quello che abitava nel mio pianerotto, le mangia. Allora tu sei come me, che io qui io nella zona conosco una, due, tre persone. Cioè, li conosco, sanno che so che abitano qua nella zona, ma non ci ho mai parlato. Vabbè, io non è che ci sono una volta qua, sempre fisso. Poi adesso che sono fisso non sto uscendo nemmeno, perché se no io uscivo la mattina presto e rientravo la sera sempre al buio, con chi avevo modo di parlare, con nessuno praticamente. No, purtroppo è così, dipende dalla vita che uno fa, è ovvio. Adesso potrei uscire, ma non esco, e dove vado? A farmi due passi qui alle punte, qualche volta così, vado al negozio, così, tanto per muovermi un po', ma niente di più. Però queste sono le persone che conosco, quello di fronte, conosco, quello di fianco, conosco. È quello che ha dato l'altro fianco, l'altra parte. Tre, quattro persone, tutti gli altri non ci ho mai parlato. E non ci sei più andato via Pascoli, al mare, comunque la persona lì? Non ci sei più andato? No, non ci sono più andato già, non sono più uscendo. Anche con Antonella non mi sono più visto, boh, da un bel po'. Non gli ho più telefonato, anche lui non mi ha più telefonato, boh, cosa vuoi che dica? Per cui no, non so cosa dirti. Non lo so, la verità, non ci sono uscito, qualche volta quando esco così con mia figlia, magari vado al negozio o vado a comprare l'acqua minerale, perché quando vado a comprare la minerale vado alla piazzetta, faccio un carico, ne compro una quindicina di confezioni di acqua, e dunque c'è bisogno anche di una certa forza per trasportare il terreno, eccetera. E allora vado io e mia figlia, che tra l'altro anche con la macchina che guida mia figlia vado. Poi qualche volta vado anche. Mi sento. Cioè ancora a fare la spesa così. Ma non sto uscendo, sto guidando più in casa. Ma così ti annui, invece trovavi Antonello, ti facevi quattro chiacchiere, una passeggiata. Così ti annui stare sempre in casa, cosa fai? Se da una parte all'altra in casa, girendi, la sai cosa va? No, così non mi piace a me. Io esco, vado, l'altro giorno sono andato al concerto a Porto Torre, se sono... io anche il sabato esco, vado a Scaraocchi a cantare, vado... Adesso ero un po' che non andavo, sabato siamo andati, c'era la festa San Gavino, c'era il concerto, c'era un bel concerto, e mi sono guardato la cantante che c'era, quella era bella completa, suonava, pianoforte, chi grandissima. E vabbè, e però io giro, io ancora vado in giro, a me mi piace girare. Lo so, tu sei molto molto più giovane di me anche, per cui devo considerare quello anche già. Io ti diviso 20 anni quasi, 18 anni più o meno, per cui il discorso è quello. Anch'io prima mi muovevo di più, mi muovevo, invece adesso boh. Ma non è questione nemmeno di portolite, perché intanto uscire, dove vado? Vado, magari mi vado a comprarmi il giornale, quello sì, vado, mi compro il giornale, poi la mattina me lo leggo, a quando alle 11, 11 e mezzo, magari ho finito di leggermi il giornale, poi accendo il baracchino, se c'è qualcuno parlo, se ho pazienza, se non mi accendo il tablet, oppure mi accendo il computer, oppure me ne salgo su in mansarda e incomincio a pasticciare, fare, dai, alle volte, tanto per passare un po' il tempo così, oppure se c'è da fare qualche commissione per casa, tipo il negozio, se c'è bisogno di comprare qualcosa, allora mi faccio una scappatina, ma è sempre lì, è vicinissimo, tu pensa che in linea d'aria dal negozio dove vado io saranno 150 metri, non di più, 150 metri in linea d'aria, perché è una strada parallela a quella dove abito io, proprio direttamente giusti, giusti, giusti, in la stessa direzione, solo che devo fare un pochino di strada e fare il giro, perché non è che posso saltare il palazzo, devo scendere per forza nella via per andare. In tutto saranno sendo 300 metri da casa mia, così, andando per la strada per arrivare a quel negozio, massimo saranno 300 metri, non lo so. Ma ti stanca passeggiare? No, non è che mi stanca, non so cosa fare, capito? Anche se vado nel cammino non so cosa fare. Prima sì, salivo, ogni tanto già mi vedo anche con Antonello, andiamo, facciamo colazione lì, soprattutto alla Conrad, facciamo colazione, oppure alla piazzetta, oppure alla quel negozio che c'è su vicino alla torre, se la Conrad, anche quella mi sembra che sia, andiamo lì su. Però adesso sono già da un po' di giorni che non ho più visto, non ho più sentito nemmeno, capito? Lui già cammina, lui tutti i giorni si fa la passeggiata, se ne va al parco che c'è lì per camminare, che c'è lì sulla Budibudi, e lui si fa la camminata col cane, e dunque si fa tirare il passo dal cane. Ma non lavora più da rimonti? No, capita, prima che ha 3 anni. Prima del Covid aveva smesso, prima del Covid, 4 anni saranno all'incirca, no, non c'è più andato assolutamente. Ma caffè, vabbè, la nostra essere, portare anche di notte, fare, mamma mia, non è così semplice. Vabbè, comunque, Antonello già c'è sempre arrangiato a fare tutto, quindi se deve fare qualcosa già la sa fare. Veniva con Celestino sempre qua a casa di mamma, ci ubriacava tutta la casa con Celestino. Lo so, no, è bravo, fare queste cose è bravo. Antonello sa fare molto, lavori di muratore, Antonello ne fa molti, altro che a me mi aveva dato una mano anche a fare l'ufficio di mia figlia, abbiamo tutto quanto fatto il tramezzo, abbiamo intonacato, abbiamo biancato, tutto quanto, tutto fatto, mi aveva dato una grossa mano, la verità, questo sì. No, lui è bravo, come cosa di muratore già le sa fare, la verità, a differenza di me, che io gli faccio lo stesso, perché io addirittura ho fatto questa casa qua, io l'ho fatta la metà io, anzi senza la metà, più della metà, perché io a me il muratore non mi ha fatto i muri perimetrali, mi ha fatto l'intonaco, il tetto, mi ha fatto, cioè il solai, là. Poi tutto il resto ho fatto io, pavimenti ho fatto io, tramezzi ho fatto io, porte ho fatto io, impianti idraulici ho fatto io, impianti di riscaldamento ho fatto io, tutto io ho fatto. Dici, no, anch'io già mi arrangio, non è che mi arrangio, solo che lui è più bravo di me e è anche più veloce, perché deve sempre fare quei lavori. Vabbè, la pavimentazione non è facile farla, il pavimento non è facile. Io ben ricordo che servizio c'aveva una porta che divideva la parte proprio dove c'è il water dal lavandino, ed era una cosa inutile per me, perché c'avevo un'altra porta che si poteva chiudere dell'entrata. Quindi cosa ho fatto? Per avere più luce ho fatto buttare giù quella porta che c'era, che nel travetto ho lasciato la parte di sopra per tenere, e le colonne che tenevano la porta le ho fatte buttare giù. Fatto sta che togliendo questa roba ho dovuto anche mettere le mattonelle, perché togliendo la parte di giù ha spaccato mattonelle e cose. Quelle mattonelle che ha messo arrivano da casa dal lavoro, cazzo, erano sollevate. L'ho telefonato, gli ho detto che lavoro faceva, cazzo, che le mattonelle si erano sollevate. Cioè, allora bisogna chiamare il piastrellista, perché io non sono piastrellista. E allora perché lo fai lavoro se non lo sai fare? Infatti anche quello ho fatto due io bagni, e puoi immaginare, io ho fatto il doppio servizio del bagno e il bagno sopra padronale, perché ti puoi immaginare, con le piastrelle, ma perfette, però non come fa qualcuno, no, che poi alla fine trovi una piastrella, una più alta, una più bassa, negli angoli soprattutto. Questo ho fatto tutto perfetto come si deve, tutto a livello, tutto bello, e poi finirò come sono io, vi guardo un po' se mi sarei accontentato. Pavimenti, anche i pavimenti ho fatto, ad esempio nel salone, quando entro nel salone il pavimento addirittura l'avevo messo i mattoni in diagonale, tutte le soglie in coso, la scala esterna lo stesso, la scala interna che scende alla tavernetta, ho fatto tutto io, ho fatto anche la scala esterna, addirittura l'avevo anche armata io, l'avevo, perché l'avevo fatta il carpentiere, come l'avevo fatta non mi piaceva, allora ne ho smontato tutto e l'ho rifatta io. Poi è arrivato un calcestruzzo e ha buttato un calcestruzzo, ha buttato e ha posto. Poi i marmi, che poi sono tutti di granito, sono ghiandone, e li ho messi tutti io, tutto ho fatto io, anche parte dell'intonaco ho fatto, ma tutto a posto, tutto dritto, no così alla carlona, o c'è tanta niente base, per carità, perché quando io ho chiamato un muratore per incaricarmi la casa, con la scusa che si sentiva male, se n'è andato, intanto nel frattempo ne avevo dato già 5 milioni e mezzo e mi ha lasciato parte dei bussi senza la casa. E dunque me lo sono fatto io, ma tutti quanti come se si tocca, belli dritti, no, non così storti, poi con la tecnica da falegname mi sono molto aiutato, la verità. E lavoro trovavo il tempo che dovevi anche lavorare giù. Cosa hai detto già? Non ho capito. Come facevi a trovare il tempo che dovevi andare anche a lavoro? Ma io lo facevo tutto quanto il sabato e la domenica. Il sabato e la domenica lo facevo. Guarda, 3 mesi prima di dove abitavo, a un certo momento ho disdetto l'appartamento, perché quel imbecille di padrone di casa, che ci abitavo già oltre 30 anni in quella casa, mi voleva aumentare l'aumento dell'affitto al doppio. No, ma se non nemmeno per sogno. Siccome la casa questa qui era già in lavorazione, ma la stavo facendo piano piano. Beh, negli ultimi 3 mesi ho accelerato, mi sono finito tutta la casa da solo, così, che ti puoi immaginare, è tutto funzionante, no, non a gallona, no. Anche gli impianti del bagno, ogni rubinetto, ad esempio, ogni lavandino, ogni vasca e ogni water al suo rubinetto, del resto c'è la cremagliera, no? È tutto. Se devo chiudere per dire l'acqua perché devo cambiare un rubinetto, chiudo dalla centralina, chiudo, non c'è bisogno di chiudere l'acqua da tutta la casa, capito? È così tutto il resto, già, no, no, non c'è problema. Il piatto telefonico, tutto è giovato io, tutto. Sei bravo, meglio per te che ne sai fare le cose. Io ce li ho, lo stesso rubinetto d'arresto, ma ce li ho per dire sotto al lavandino, sotto al bidet, non ce li ho tutti in una centralina, capito come ce li ho. Io ce li ho, praticamente ne ho uno sotto al lavello, che chiude solo il lavello, poi ne ho uno sotto lo scaldabagno, uno sotto al lavandino del doppio servizio, uno sotto al bidet, e insomma ce li ho diversi. Quello non posso più nemmeno se funzionava perché non li ho utilizzati più. Si dice bignè. E bignè ce lo mangiamo con la crema, molto buono. Io sono già mio, fai dozzi. Ciao Giorgio, ciao Gianni, non so chi c'è altro, se non è che in ascolto. Ciao Tony, sei entrato quando ti dicevo banda? Io sto per scendere giù a portare a Tyson, che deve andare a fare i bisognini e poi mangio se mi tocca. E ho acceso così al mondo d'altro, non c'è nessuno. Non è che non c'è problema per me. Ok, Giulio, sono già agli sgoccioli colorati. Ciao Tony, avanti. Sono veloce. Sì, veloce Giulio, stavo fotovando ancora e ti ho volato sì a te. Tony, vabbè. Sì, ci siamo, guarda che ci siamo da questo noi, mi sembra che erano 5 mesi più o meno quando abbiamo iniziato io e Luca. Sono già le 7:40 quasi, 7:38 là. Adesso fra 5 minuti devo fare la terapia, perché sono costretto a chiudere per forza, obbligato. Vabbè dai, 5 minuti ancora posso rimanere lì. Ripeti, ti lascio tempo e spazio per dirmi tutto quello che mi vuoi dire, avanti. Guardati, io ho già cucinato sardine, aglio prezzemolo di lusso e padella e sono a posto nel giro per stasera. E niente, mi stavo guardando la ruota della fortuna, con ci discuti che alle 5, mi sono fatto un bel fisolino, ho detto quasi tutto, eh. Ok, riprendi già. Ma non sono tanto leggere le sardine aglio prezzemolo, le digerisci di notte. Scappa! Perché io quando mangiavo i piseri fatti così non li digerivo, ma le sardine così mi piacciono ma non riesco a digerire lo stesso la notte. Se magari le digerisco di più fatte, sai come, fatte a filetto, impanate e fritte, così sono buone. Le chiamano backupi così, sì le conosco, fatti quelle. Ne ho un altro sacchetto da un chilo io in congelatore, quindi guarda, me ne farò così infatti. Tony. Hai visto che ieri quel ragazzo quel gioco di discorsi ha vinto la macchina anche, oltre a aver vinto 36.000 euro mi sembra, i soldi, ha vinto anche la macchina, ha vinto, non hai visto la puntata ieri? Non è scappato da me, no, non ha vinto 30.000 euro Giulio, dicevo che era 15.000 euro, più la macchina DR. No, ma in due serate l'ha vinta, ieri 15.000 sì, ma il giorno prima avevo vinto altri tanti soldi, o Tony. Non mi ricordo quello di giorno prima, comunque, sì. È fortuna perché ho visto quella ruota, quante lettere ci sono, e ha peccato proprio con la DR, la macchina. Ecco, la macchina costa già, non voglio esagerare, ma buono buono, 20.000 euro non ne costa, anche qualcosa in più. Ma se lo riporti in lire è spaventoso, perché sono tutti pazzi. Quando mai si può pagare una 500, 12-13.000 euro, che sono già 26 milioni, ma non tentate. Figurati, già lo so, sì, purtroppo la 500 costa un sacco di soldi, non bastano 12.000 euro per la 500, se ne vogliono magari 15, Tony, sicuro, guarda, perché anche per una Panda lo stesso, perché era andato mio genio, era andato a comprare la Panda e costava un sacco di soldi, ho detto no, non la compro, me ne compro un'altra, magari anche a costo di spendere qualcosa di più, e ha cambiato idea, anche se a lui piaceva proprio la Panda, però non se l'ha presa, non se l'ha voluta comprare, e cioè, ancora mi tengo questa, ancora già va bene, perché poi tra l'altro la macchina ce l'ha, mi ha una Clio, e poi non capisco il capriccio di volersela cambiare, non lo so, comunque, ognuno ha le sue idee, no? Che problemi ci sono, vai già. Tony, non so se l'hai visto l'altro giorno, hanno fatto venire vedere le 500 Abarth, costano quasi 100.000 euro, quasi tanto una Ferrari, hanno fatto vedere questa qua che è tutta quanta dentro, è bellissima, ci ha fatto in pelle, volante in pelle, tutta bella tirata, ma è sempre una ZQZ, è una scatola. Sono 500 personalizzate, se le fanno pagare già a me. Medico, te ne dirai conto, tu dici te ne dirai conto, il giudice dice ide, c'è lo scemo che invece dice sì me la conto, ho capito. Già, uno a buttare tanti soldi, ci pensa 4-5 volte prima di spendere una cifra del genere, per un mezzo con voi, che è una scatoletta, ma per la prendo, ma sicuro che a me piace molto la Panda, sera che fate chi fungeva i sedili di sacco. Beh, dai, Maria Dice ha lasciato per la mia terra. Dimmi di giù. Sì, ok, sono. Ma avete notato che adesso le macchine le vogliono vendere per forza. Per forza nel senso che vogliono mettere in condizione le persone di comprare la macchina nuova. E se io ho visto la pubblicità, ma addirittura la Citroën, la C3, 69 euro al mese di cose, di razza. Oppure altre macchine di Fiat, addirittura 79 euro al mese di razza. Cioè stanno mettendo in condizione le persone di comprarsela per forza, anche quelle che non la possono pagare, perché 70 euro, 79 euro la possono pagare tutti, tutto sommato, se vogliamo. Non capisco come mai. Magari chissà per quanti anni che fanno pagare, poi che vanno a pagare per 10 anni, non lo so questo. Questo non lo so per quanti anni dura, perché a 79 euro al mese, capita, è tanto tempo che muore a pagare la macchina, o Gianni. Magari muori prima di pagarla, così li butti. No, io questa qui, per me questa macchina qua, se mi dura, questa è l'ultima, non ne cambio altre. Ho speso un po' di soldi perché pensavo di andare a lavorarci con la macchina, invece poi vabbè, purtroppo non sono stato bene, quindi ho dovuto mollare col lavoro e niente. Adesso ce l'ho, la tengo, ma diciamo che vai a prendere le ruote con 180 euro, vai a cambiare un pezzo 160 euro, sono tutte cose care, capito? Invece con la macchinetta avrei speso molto meno. Allora, è questo, sì, lo mi sa che io Giulio ho fatto 99 euro al mese, 70 euro, allora ci vogliono disfare più presto queste macchine, perché fra 11 anni a quanto pare dicono che eliminano la benzina, il gasolio eccetera, e vogliono poi vendere le macchine elettriche a tutti i costi e si rimagnano perché sono molto pericolose, anche se mi viene il fuoco non le spegni con l'acqua, ma come le cattoli, ci vuole un prodotto speciale, i bottini te la spengono, e poi ma dire con che l'animaccia di dirà, se lo sapete, meglio nulla, vuol dire che allora un domani, quando non ci sarà più la macchina, benzina si è pagata ancora, vuol dire mi prenderò, penso posso dire, uno di quei motorini a batteria, purtroppo, pazienza, tanto che ti elimino la benzina più che proprio, ma non compro la macchina assolutamente, forse la benzina è pericolosa, no. Noi ci dirai, sì, ma anche la moto a batteria, ci potrebbe incidere la batteria, sì, ma brichi, freni e zerappe, non è come la macchina, capito, che si mette una scatola. Magari noi abbiamo queste idee, quindi magari non è così perché non conosciamo ancora bene il prodotto, eccetera. Ancora bisogna vedere, però non sono molto convenienti, perché a conti fatti quello che tu spendi in benzina lo spendi anche per caricarle, quindi non è, anzi fanno meno chilometri, ne fai di più la benzina che elettrico, dopo non è affidabile fare molti chilometri perché ti si può fermare in strada, tu mi dirai che con la benzina può succedere, però questa qua rimanca l'elettrico, cavolo, e non puoi andare avanti, non è che ci siano colonnine da ogni parte come i rifornitori, adesso faranno anche i rifornitori elettrici. Sì, ma già il fattore è sempre quello, capito? Allora, a me, ripeto, non mi interessa se roba qua, la batteria costa un paio di dinari. Perché non hanno inventato, dato che sono ingegneri, anziché la macchina batteria, sì, che si autoricaricava. Per esempio, com'è la macchina nostra? Abbiamo un alternatore che ti ricarica la batteria se non sei apparata. E perché non fai anche con quelle batterie? E no, ci devono sempre speculare i soldi, devo andare a colonnina, pagare con bancomat e caricarti la macchina, ma che si dà piglia la luce, avanti giù. E soprattutto devi stare mezz'ora fermo lì, aspettare. Sì, ma è così, ma io oggi come oggi, perlomeno io parlo di oggi, in futuro non lo so, ma oggi come oggi secondo me non è conveniente la macchina elettrica, a parte il fatto che costa un'anima di soldi, costa un sacco di soldi, molto ma molto di più di una macchina normale a benzina, per cui poi acciaio, come stai dicendo tu, la batteria sicuramente ti conviene comprare la macchina nuova. È un po' come trafare la batteria, no? Tu mai trafare la batteria, ti conviene comprare il trafalo dopo, perché vuoi comprare le batterie costano quanto il trafalo, quasi quasi. Magari dai, ma questo è per arricchire la Cina, perché tutte queste batterie vengono costruite in Cina. E poi sono convinto anche, perlomeno stando agli esperti, quello che dico gli esperti, che poi quando vanno a soffraggio, queste batterie inquinano più di quanto inquina le cose, la benzina. Vabbè, comunque. Vabbè dai, signori, vedi, è arrivato l'ora, ve devo lasciare per forza, dai, devo andare a fare la terapia, sono già in ritardo di 3 minuti. Ci sentiamo. Ciao Tony, grazie per essere entrato almeno a salutarci e a cambiare 4 chiacchiere, così ci sentiamo la prossima volta, magari faremo un questo più lungo. Ciao Gianni, salutoni anche a te, alle prossime, grazie per la chiacchierata, salutoni a Luca che è all'ascolto e anche a Natalino che è all'ascolto sicuramente. Alle prossime, dai, io ascolto Pilarino, poi chiudo. Vai già. Ciao Giù, grazie per il QSO, dai, ci sentiamo, chiudo anche io, dai, saluto tutti cordialmente, Natalino, Luca, anche a Torino, anche se c'è stato poco, vabbè, magari domani entrerà prima, qui ci facciamo un QSO più lungo, dai. Dai, io devo portare il cane, tu, mi dispiace, ma devo andare, dai, ci sentiamo. Ok, d'accordo, ciao Giù, del salutone, ci sentiamo, buona terapia, alle prossimine. Ciao Gianni, beh, guarda, io non bisogna portare il cane, c'è il cortile, sono fuori, non so cosa devo fare. Ok, dai, vabbè, se accetto più presto, domani, se ci siete, ciao a tutti, qualità, qualche